passione. Noi che sogniamo, quanta strada mastichiamo, quanta fame che facciamo per cantarci la canzone. Non ti arrabbiare se la panza ti fa male, se non puoi andare al mare, se ti han tolto la pensione. Ovunque abbiamo andato, abbiamo sempre piaciuto, ci ha pure dato il fico, quattro noci e un baccalà. E questo che ci dà soddisfazione, avanti il battaglione, si salvi chi può. E faceva più, ero più in su, ero più un po' più in giù, lui che cantava non ce la faceva più, ce la faceva più, ce la faceva più. E colorato, faccio un esempio, se ci piace la ragazza, se la portano alla festa con la mano nella mano. Noi siamo i brutti, ce lo dicono proprio tutti, ci dobbiamo accontentare di guardare da lontano. Ovunque abbiamo andato, abbiamo sempre piaciuto, ci han pure dato il fico, quattro noci e un baccalà. E questo che ci dà soddisfazione, avanti il battaglione, si salvi chi può. E faceva più, ero più in su, ero più un po' più in giù, lui che cantava non ce la faceva più. Mambo! Ero po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po più. Ero più in su, ero più un po' più in giù, lui che cantava non ce la faceva più.